attenzione, dici, c'è qualcuno, cambio. C'è qualcuno, c'è qualcuno, cambio. Yes. Yes. Un attimo che sto facendo una cosa, dopo ti spiego. Allora, sono le... sono le 3.45, 3.45, nominativo, ricordami il nominativo, no, non è Emanuele, è l'altro, eia, ma non è Emanuele il tuo nominativo, è Ginko. Che potenza stai uscendo? Vediamo un pochettino, prova a vedere quanto arrivi il segnale. Quanto ti sto arrivando di segnale io? KK. Va bene, da Sassari, perché sto compilando una cosa, c'ho il diario di stazione che faccio. Vai, e faccio durare un rete, tane vottisu. Ah, Natalino, Alfa 1, Alfa 1, 40. Anche tu stai facendo il log, boh, che meraviglio di lì. Fatte 4.5, oggi è 10.06, questo qui è il terzo collegamento, vabbè, dammi un controllo radio e segnale Natalino. 5.9, stai arrivando 9.10, radio 5. Prova tua. Guarda, 1, 2, 3, prova. Cazzo, sei 9.20, tu stai arrivando più basso di te. Vai. Tu sei 9.20 qua. Vabbè, ma io ho l'antenna più bassa, cosa c'entra? Arrivi Santiago 9, però sappiamo che praticamente è avaro questo smitter, quindi io aggiungo sempre 10. Sempre 10 devi aggiungere, sì, ma è sempre basso, niente, ti dovrà arrivare minimo 9.30. Ma c'ho problemi di ricezione io già, te l'ho detto che io c'ho l'antenna bassa. Babu, non c'è problema. Antonio. Ciao Gianni. Avanti, ciao Giulio, mi sento anche a te, dai, avanti, a una alla volta, io che sto facendo il log. A me chiamato, ciao Antonio, buona serata, ciao Natalino, scusa per stamattina, mi ha mancato la luce, dunque non ho potuto riprendere, ciao Gianni, no, volevo sapere come sto uscendo in radio, sono lì, solo questo volevo sapere, dai, poi vi lascio. E bene, sta uscendo bene Giulio, dai. Dammi un segnale anche a me di Radio Santiago, fa la cortesia. Sì, 9.20, 9.20 per radio è ottima. Ok, anche la tua è buona, dai, è ottima anche la tua. Andare, dollaro, sto facendo il log Giulio, mi sto divertendo. Fai bene, no, sto usando questo vintage, mi dà 5 watt, mi dà di potenza, come segnale va bene lo stesso già. La voglia va benissimo, dai, la frequenza 27.075. Quello già lo sappiamo, vabbè, grazie, riprendete, dai, continuo io. E anche lì non scherza. Ciao Natali. Ciao Giulio. Ciao Emanuele. Ciao Emanuele, anche tu ci sei, non lo sapevo, ci sentiamo, alle prossime, dai, a dopo, perché adesso sto continuando qua, ciao, riprendi Emanuele. Ehi, dai, sì, no, già sto andando bene Emanuele, adesso facciamo aggiustare anche quell'appalto che hai dato a quella persona, e vedrai che esce bene anche lui. Avanti, altri non riservo. Ok, ciao a tutti, ci sentiamo. A dopo, dai, continuo io qua. Ma tutti in abissardi, visiti. Boh. Azzardo, che fai? A tu, dammi un segnale. KK, dai, prova tu. 9.25 apparecchi positivi, dai. Già vai bene. Con che apparecchio stai uscendo adesso? Con quello là che mi hai detto? Ah, aspetta un attimino, è 9.25. Poi dimmi, quella che hai dato a quella persona là, quella che non funzionava, adesso la portiamo a aggiustare. No. Lo dico, l'ho detto a un amico, dai, ve lo fa lui. Perché cosa c'aveva quello là? Un microfono si busca, una particolare cosa. Un microfono è con l'attacco di chi si canudi rinisci, che non c'ha manco ghiera. Ah, non è di quel gaspinotto che ne esce. E una cosa va di particolare, scusa. Attacco del tipo, ci metti le BC 60. Ho detto che apparato è Emanuele. Pace e bene a tutti. Mara, deve regalarsi Saturnetto, del Saturnetto pacchi. Anche il mio c'aveva la macchina di qualche tazzina di caffè sopra, non lo so cos'era, non riusciva in nessuna maniera, allora l'ho preso, rivigato con la carta abrasiva, quella fina, l'ho fatto bello pulito, dove c'era il segno, ho pulito tutto quanto bene, poi l'ho verniciato, non si vede nulla, è perfetto. E cos'è con Saturnetto? 5555, non è quello che esce con 100 va. No, c'è anche l'ala che esce con 5 con 100 va. Ah, prendete. Ma poi dalla pento anche tu. Vai. Sei super gettonato, gatto. Avanti, tattalino. Lui è il mio. Chi te l'ha dato il logo già? Io l'ho fatto. Ah, te l'hai fatto tu, perché io gliel'ho dato a Riccardino uno, un foglio, e così se lo fai ti stampi le altre copie e praticamente ce l'hai. Sei vintiato, me l'avevi stampati tu. Ah, io te li avevo stampati, allora ce li avrei a quello che ho io che non uso, non ne sto facendo. Ma io oggi mi voglio prendere il divertimento e lo faccio. Oh, io che sono contento. Beato lì. Il primo che ho fatto è Portogallo, vicino al porto. Una città vicina al porto, me l'ha detta ma non riuscivo a capire cos'è, che città era. Portugal, ma la sentivo basso. Lui mi sentiva bene, sentivo 7, meglio 5 a bomba, ma io lo sentivo bassottino. Ecco. Mettono a posto tutte le informazioni necessarie. Però sapere. No, io non ne sto più facendo. C'è viene, grazie. Ma Marco, io oggi mi è andato a capo, non so cosa va via. Ho visto la cartella, l'ho aperta e c'erano i loghi, allora ho cominciato a farli di nuovo. Cappa. Compilo una adesso e poi così almeno mi ha tolto il vizio, dai, mi ha tolto lo sfizio. Le compilo una e poi le metto la panna. Ehi, cazzo. Io l'ho fatto quando... Prendi questo, che macello, dai. Lo facevo quando facevo i diplomi, capito? Quello forte. E ne c'è doppio VL. Ecco. E vabbè, ma anche a livello diciamo di città si dovrebbe fare, in ogni caso, dovremmo fare tutto. No, i radioamatori solo sono obbligati a farlo. Non lo so. Comunque adesso ce l'ho e lo bozzo. Capito? C'è tutto, numero del QSO, data, ora inizio QSO, frequenza, modo di emissione, potenza, nominativo, rapporto dato, rapporto ricevuto, alla fine QSO, osservazioni. E tutto, cioè è completo quello lì. L'avevo fatto anche a Claudio, l'avevo fatto il log. Sì, vabbè. Poi io ci sono fatto ginnastica. Era chiuso in cucina per non morsicare, no? E praticamente l'ho chiuso in cucina e sono andato, mi ha detto non vorrei vedere camminare con le stampelle, e infatti non provo, sono andato a prendere perché le avevo conservate, come ho aperto il peso dei cibo e gli ho detto mamma mia il cane è uscito, e gli ho detto vabbè, l'interessante è che dice affermo che adesso lo accarezzo, come vede che la sta accarezzando il cane diventa bravo. E così ha fatto, solo che lui è andato a toccarlo in testa, ui, lo stava già casco di sole facendo così, no. Andate a toccare il capo. A drizzare la coda e passi in picchiata, Gindu. È una scena, ecco. Bisogna stare molto attenti. Per più volte col guinzaglio, vabbè, ci riesce a salvarlo, ma oggi non c'è un guinzaglio, fatto è quello, oggi bisogna dobbiamo collare. E infatti. E Curtu non ha morsicato a coso l'altro giorno. A Pablo, a quel cane piccolino che c'ha l'amica. La musica da musichini. E come mai? Giocavano sempre insieme. E ia, l'ha morsicato. Non c'è da fidarsi. Ma aveva morsicato anche a me, pa. E che... Ma l'ha fatto un bambino di cazzo. Cosa ne giochi? Lo so, dai. Kurt sta diventando moneta, ha musicato pure a te. Io a me mi ha musicato chissà quanti voci. Ma è una voce azzurra e mi ha musicato. Sta giocando, mo sapere lui, dammi. Cazzo. Giocando le ha buccato il dito. Giocando, il culo toccando però. No, a me dai, ormai mia musica. Mi minaccia quando fa, quando lo disturbo che sta dormendo, ma io sono disgraziato che gli tocco la coda, capito? Ma non lo devi educare perché lo stai disturbando quando stai facendo così. Lo so, lo sto disturbando e dopo c'è il fatto che lui quando sta dormendo non sa chi è che lo sta toccando, quindi si gira di colpo, capito? E così ha fatto Kurt, si è girato di colpo e mi ha musicato. Hai provato l'emozione del morso. È la volta che mi ha morsicato tutte e due le dita, di tutte e due le mani, tutte e due i pollici mi ha morsicato. Perché gli stava aprendo la bocca per dargli la pastiglia. Cazzo, roba di morso. Quello due volte me l'ha fatto. E vabbè. Così sono fatti gli animali, li devi fare, non è che loro si esprimono in questa maniera, quando si stufano morsicano, non è come noi che ci incazziamo, quando morsichiamo, loro morsicano. E che morso, c'ha ogni morso, gatto, mamma mia. E se non beh, svogna lenti, ui ui. Ma i cani in genere, i canini ce li hanno ben pronunciati, capito? Sarebbero un cane. Sei un figlio di cane, figlio di un cane quello. Mi abbatte, ah, sei girato a Baidame. Abbatta si rusa, puzzinoso. Lo sai che ho figlio di un cane? Oia. Oh, yeah. Oh, Antonio. Riprenditela, poi la rilascia Ginko. Come non ti ascolta, prova. No, Ginko, lo ascolti Antonio Riserva. Vedi che ti sente, Antonio. Tanti saluti da Antonio Riserva e poi ti sente, lo stai salutando. Via. Adesso ho spento, metto tutto quanto. Adesso sono in lutto. Sto scendo con 2,5 watt, dai. Ehi, 497. Ma quale 497, scusa, non sto capendo. Oh. Ah, non ho perso 4,5 watt, da pochi watt, però si può sempre, capito, aumentare. Sì, dovrebbe, sì. Non sono sicuro, però dovrebbe uscire così, perché un uomo gatto esce così. E chissà se si può mettere a posto, perché quanta gente l'ha preso in mano con l'apparecchio. L'ha preso... Mi sa che c'era qualche pompone così, e non ci è riuscito a aggiustare. Vabbè, adesso lo vedremo, è un amico che è un tecnico di USB, non ti preoccupare già. Riuscirà sicuramente. Oh già, volevo sapere una cosa, interrogativo. Se hai un apparecchio di quelli veicolari che abbia lo smitter. Sì, che c'è. Basta, volevo sapere quello. Ce l'ho. Smitter cosa c'ha? Trattini però. No, mi serve a lancette. Già ti spiegherò il perché. Lancette. Ma sono tutti attaccati, li ho attaccati tutti con l'adesivo, capito? Perché io ce l'ho a LED l'altro, quello omologato è a LED, lo Smith, capito? Cioè trattini anche quello. Ecco, il Milan c'ho, il Milan. Il Milan, giochiamo col Milan allora. Lo devo staccare dall'alimentatore perché ci ho messo il biadesivo che lo attaccava sull'alimentatore, capito? Sì, ho capito. Vabbè, già te lo dico al telefono. Sì, ma c'ha i LED, c'ha il coso a LED, non ce l'ha di quelli con la lancetta, ce l'ha a pacchette, là. Forse il pubblico, quello. Sì, vabbè, ma già c'ho la lancora ancora. Fammi sentire questo SMO, vedi? Ah, l'hai messo corto, dai, per risparmiare. Ebbene, non gli puoi mettere un varo nel fare una giusta. No, pare di bene. Per fare la bazooka, confermi l'antenna che stai usando tu. Hai capito, Ginko, che antenna stai usando? Quella che sembra un manganello. Se Maggio Maria è dove abiti tu, scusa, è di lui che arrivi in volo. Non lo so, quella bazooka io non l'ho mai digerita, perché è un'antenna che va bene in barca, non c'ha bisogno di massa e praticamente sfrutta lo specchio del mare, si rispecchia nel mare, quindi sfrutta quello. In mare va bene, ma fuori no, non è tanto per l'acquario. Sentiamo il bullyboy di Isa, però io per quella avrei comprato la boomerang. Compra quella di Torino, va bene, è leggera come materiale, non è come quello della Mantova, è un materiale leggero, capito? Però fa solo bene. E beh, c'è la Natalino, c'è la Marco Cono, c'è la Lentanti, e vanno bene. Mattali, mi vedi la Ginko, la terra tua, e ti metti la Game. Cosa già? A prendere la Ginko, la terra tua, e ti metti la Game Master lì. Magari potessi. Cazzo, me l'avevo costruita in 5 minuti la Game Master, ma mi sembra che c'ho tutto in campagna. Già pronta, vivo solo la canna a pesca e tira buon gusto, solo che mi viene male, io non la posso smontare questa qui, non ti credi che sia così facile, no? Lo so, ci vuole una scala aerea. No. La dica c'ha fa il buttatore di Rio Comune, cazzo, gli dico, entra e inocchi un attimo. E allora arrivimmo, ha chiesto un gestello, via, e l'abbia un di voglio. Bisogna che ci sia qualcosa di altro. Quello lì è per gli alberi, Emmy, lo usavamo, ce l'avevamo noi, il camioncino col cestello. Ah, ecco, ma un periodo avevo preso una squadra dal continente che portavano gli alberi, ma non sai che anche la liberuccia a piedi, ci avevano quei cosi che si mettono, quella specie di scarpe con i rampini che si attaccano al ramo, te le presenti, si hanno applicato così senza scala e tagliavano gli alberi in 5 minuti, tagliavano in due. Un albero lo portavano 5 minuti. E anche noi ce li abbiamo quelli al comune. Anche con le corde quelli pigliano e salgono. No, con le corde no, loro salivano con queste specie di mezzerule con i denti, che si attaccavano al ramo dell'albero, al tronco, e salivano a saetti bagliati. Già lo so. Quello con le corde si chiama Free, aspetta, non mi rammento un nome inglese, un po' piccolo. solo, ma sai, antipaglio e comunque ci sono i potatori, quelli che salgono così. Cosa? Un uomo inglese? Non lo so, io l'ho visti ai giardini del monte, ero lì con il cane, praticamente c'erano queste squadre che stavano portando gli alberi, ma tu devi vedere che velocità, erano continentali, è una ditta che hanno preso dal continente, non so da dove, ma erano continentali. Aria di scimmie a te, dove? Ho detto mamma mia, come che siete spericolati, poi con quella motosega in mano, lui... Io ho sempre paura della motosega, trovo un lodo, torno indietro, quando si hanno appiccato non mi la fai manco a fuggire. Ti torno indietro e ti fai in due. La motosega, oh via, non mi lascia, non mi appiccio, quando si sono questo. Tra quello lì e la motozappa, non so più chi scegliere. Io la motozappa ho un amico che aveva il figlio con il padre. Praticamente il figlio di questo amico mio era col padre, cioè col nonno, e il nonno se l'ha portato in campagna, stava molto zappando, a un certo punto un gatto ha preso una pietra, ha molto zappato, l'ha andata lì, un gatto e l'ha schiacciato, l'ha tutto maciullato davanti a questo bambino di 4 anni. Tu pensa a questo bambino cosa si porterà presto? E perché quello del tabacchino non gli è successa la stessa cosa? Ma no, con la moto zappa, che è pericoloso a vedere, un motocoltivatore, gli ha maciullato le gambe. Questo qui, guarda, c'era quello di fronte a casa, che ne sono operatori, mi ha detto che hanno fatto un intervento di 6 ore e mezzo, era tutto spappolato. E il nipotino di 4 anni ha visto tutta la scena in diretta. Questa creatura poi erano soli in campagna, capito? Non è andato con nonno e poi non c'era nessuno. Lo so, lì vuole bloccato subito il sangue, vuole essere un astrullaccio emostatico. Bisogna saperle fare anche certe cose, bisogna stringere con qualche cosa che c'hai, in modo che il sangue non scenda, però non si può lasciare più di un quarto d'ora, perché poi ti si blocca il sangue, è un casino. Ti va in cancrena, quindi bisogna anche saperle fare le cose. E vabbè, comunque è andata bene, tu lo puoi dire, è andata bene, no? E vuol dire che l'hanno attaccato bene. E una volta di fronte dove c'era il negozio mio padre si sono afferrati, due c'era una specie di BDU, si sono azzuffati, questo gli ha tolto la roncola da dentro la macchina e ne ha tagliato l'orecchio di netto a questo qua. E dice che quelli dell'ambulanza hanno preso l'orecchio, l'hanno messo in mezzo al ghiaccio, l'hanno portato all'ospedale e l'hanno riattaccato. E lo so, una volta hanno portato una mano tagliata e il tipo con la senza la mano, no? Questa infermiera è andata in bagno, cazzo, l'ho vista che era bianca, cazzo, ed è svenuta. E ho chiamato i dottori, ero ricoverato in ospedale, ma me ne sono accorto subito che non stava bene. È andata in bagno ed è svenuta quando ha visto questa scena, capito? Ti immagina, c'è un infermiere in traumatologia. E il fatto sta che hanno dovuto metterla in una barella e rianimare anche la tipa che si è sentita male, capito? Vabbè, ma non è vero in tutti i colori, è come che io facevo il servizio ambulanza, come Natalino che faceva il servizio ambulanza, che ne abbiamo visto in tutti i colori. Incidenti stradali, gente morta, gente a pezzi, gente piccata, di tutti di più. È brutto sì, ma diciamo che un po' ci farò. No, ma se li devono operare non è traumatologia, capito? Questo qui c'aveva la mano staccata brutta, di netto, la mano dentro il ghiaccio e un braccio dentro la mano. Tu immagina che sono tutte le vene, diceva, era bloccato dall'accio emostatico, però anche la rimidura di tirare la rega due subito e sono operato. Vabbè. Perché quando ce l'ho ricoverato non è venuto quello che ha ammazzato la moglie a Sos, davanti alle figlie. È venuto con i carabinieri, perché dice che gli faceva male il polso come gli avevano stretto le manette i carabinieri. E l'infermiera ha detto, cazzo, però la mano che hanno ammazzato la moglie non gli faceva male. E allora, praticamente l'hanno portato lì in traumatologia, l'infermiera ha detto, già qua è arrivato quello che ha ammazzato la moglie. E ha detto che praticamente i carabinieri sono stati, non sono stati molto in gamba, che ad arrestarlo davanti alle figlie. Dice però quando ha ammazzato la moglie, lui davanti alle figlie non aveva problemi. Oh yeah. Questa qua ci va di bergastolo, minimo. Oh, c'è una gente che esce fuori di testa, no? Vabbè, uno può incazzarsi quanto vuole, ma deve avere un po' di autocontrollo. Lo so. Io qualche volta l'ho preso l'autocontrollo, ma tutto perché me ne hanno fatto uscire gli ultimi. E quando l'ho vedo io, sono terribile. Adesso io sono bravo, però sono terribile picchiato. Anche, no, sono più caldo che terribile, però quando mi incazzo non voglio visto. Io mi dico io, fatelo dopo. Adesso magari non sarà più così, ma da ragazzo una volta a Sacro Cuore sono arrivato con il cane e praticamente sono avvicinati questi tre. Io stavo tornando a Terralba, avevo preso i vini per Tourist Market dove lavoravo. Avevo fatto un carico di vini e sono andato a casa perché poi di domani mattina dovevo portarli giù. Ho chiuso bene il cane, tutto quanto l'ho parcheggiato, stavo scendendo e si avvicinavo questi tre. Lei qua il camion non lo può parcheggiare. Io ho fatto finta di nulla, ho chiuso il camion. Ha capito, siamo dalla squadra Narcutici. Io mi sono detto, tu più con la squadra Narcutici per la faccia da drugato. Lasciatemi in pace perché sono stanco. E quando sono ubriaco io non vengo più. Mi hanno seguito, io abitavo nell'angolo che c'è a Sacro Cuore, tra via Pavese e Piazza Sacro Cuore, nell'angolo, ma ne mi seguito. Mi hanno perseguitato, io facendo finta di nulla, loro cominciavano, vai, non vai un vigico, vai, che fu di buona giusta. Poi come ho visto questo qua che stava andando per picchiarmi, per saltarmi addosso, non va giù visto più, anche la giù tutto dritto. Uno c'aveva il gesso, gli ho spaccato il gesso a fare dei ripeti, manca accorto meglio che c'aveva il gesso nel braccio. Poi mi hanno chiamato i carabinieri, e stavano stati i carabinieri a casa, a casa mia i carabinieri sono mai alzati, scendo giù, e vedo, i carabinieri erano amici miei, sai, facendo servizio ambulato, diventi amico di tanti carabinieri, polizia. E mi ha detto, già, cosa è successo? Gli ho spiegato, tutto questo si è scambiato per scuola, narcotici, tata, e mi stava facendo spostare il camion, poi praticamente dopo che li ho picchiati hanno chiamato un po' di gente, c'era una roba di, io ho messo 20 bastoni e hanno detto che se non scendevo giù mi bruciavano il camion. Mamma non ha voluto, non ci scendere che ti metti, sono in tanti, ti ammazza. Ah, cosa mi ammazza? La lapide un mosso di ruccio per il culo da capo. Dov'è che mi ammazza? Beh, fatto sta che sono sceso quei carabinieri. Ma tu sì, mi meraviglio di te. E così è così. E vabbè, dice, dovevi chiamare a lui, però sì, a quanto stavo a chiamare a voi, ma vi ha rifiuto. Beh, fatto sta che a questi qua, ha detto, chi è questo della squadra narcotici? Ha detto, oh, quello lì si è scambiato per uno della narcotici, fatti vedere, si faccia vedere il tesserino. Sì, fammi vedere il tesserino, gli ha detto, no, stavo scherzando, era tutto un ciatto, di raggaricato in macchina. Ha detto, poi mi ha trovato un giorno e mi ha detto, vedrai che cambiano strada quando ti vedo. E così va a dire, ci amava le gavire, se tu fai il debuccio, te ne approfittano, capito? Questi cambiavano marciapiede, anche tu quando mi vedevo, e ringrazio che non c'era gente del Sacro Cuore, che a me mi conoscevano tutti i chimici, perché era una partita, se no sarebbe successo qualcosa di grosso, avevano incontrato una giusta, guarda, che manco tre accuse, quando sono arrivati con la ventina di persone che hanno chiamato la latte dolce, perché la gente è latte dolce. Avanti 5-5-5. Comunque l'hanno presa ugualmente la sussa, se cambiano strada l'hanno presa in caserma la sussa. Ah, tu dalla narcotici, sì, budum budum budum. Su salita l'ha ricuto, il chimico l'ha ricuto un ciappo della carica di macchina, il padre si è messo a dire a voce, hai rovinato a mio figlio, gli ho rotto il gesso, io non ho visto nulla, quando io tutto non vengo nulla. Che tu gli hai fatto il gesso? E ha detto che l'hai fatto mancare la vista da un ciappo? E vabbè, comunque adesso sono invecchiato, vabbè, non sono più così, siamo più tranquilli. Avanti. E se bacino, dai, aspetta, se bacino, non so da dove tu stia modulando, io sono zona via Baldetta e mi arrivi Santiago di 3 e la radio di 2, vai, non so da dove stai modulando. Ma se il vecchio Alfetta di Porto Torre. Ah, ho capito. E vabbè, chi sta parlando con te? Autista del tourist market, non so se mi conosci. Cosa? Chi sei, Stefano? È lavorato con me? Ah, capito, Stefano, che ho capito. Sì, sì, sì. E vabbè, qui sono vecchi ricordi, dai. Cosa? No, non sono in pensione, diciamo sì, dai, in pensione da una parte, ma dall'altra devo prendere proprio una pensione fissa, dai, c'ho un assegno pensionistico. No, io i miei anni li ho fatti, dai, ho fatto 38 anni, poi sono stato operato alla gamba, eccetera, eccetera, quindi... Non po- il dottore del lavoro ha detto che io non sono più abile al lavoro, quindi non posso più lavorare. Ciao, ciao, ci sentiamo, aspetta, c'è anche a nostro amico, dai. Avanti, Antonio Riserva, li senti? Dico, Natalino. Oh, yeah. Lo senti più, aspetta? Negativo. Gianni, come esce questo microfono? Ah, passaggio lungo. 1, 2, 3, prova, attento Gianni, attento Natalino, come esce questo microfono normale? Esce bene, dai, andiamo a bene, presente. Ok, grazie, continuate. Vai, Natta. Cappa, ciao giù. No, io sto provando una cosa. Ma la sorte. Sempre qua sono io, sto scrivendo l'ombra. Io sì. Aiuto. Gianni, mi ascolti, sì? Sì, sì. E sto provando una radio. Mi senti? Ma prova, io non sentivo, non ti ho sentito. Cappa, boh. Ho sentito il ginko che ci fa tutto quanto strano, però non era chiara la radio, eh. Mi ascolti adesso? Ehi, ah sì, anche qua è così. Oh, ehi, com'è adesso? Troppo amplificata, che radio è? Non è chiara. E va bene, andata, troppo amplificata. Siamo tanti un microfono male. Non lo so, allora c'è qualche cosa, perché non la sento chiara. Sì, va bene, dai. Adesso ho abbassato il volume e ti sento meglio. Adesso come la radio? Già ti sento meglio. Sì, ma il segnale è sempre uguale. Non lo stavo guardando il segnale, prova a vedere. Vedo un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così se 9 e 5, prova l'altro passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ma non è uguale. Sì, vabbè, ma la radio ha cambiato comunque. Sì. Vai, perfetto, dai. Che alla gara. Luca, sarà brumido? No, io no. Io dormo dopo pranzo solitamente, anzi se non dormo sto rincoglionito tutto il giorno. Non lo io no, io già sono abbastanza brumiglione. Sono come il mio cane ha preso da me. Si trovi, lo sai cosa fa? Dopo pranzo no, mi guarda come dire andiamo a letto, aiuta, andiamo, cazzo, piglia, va, arrado sul letto, salta. Guarda, tu, io ti dico una cosa, per me il cane mio è come un soprannubile, non mi dà nessun fastidio, niente, almeno che ci sia gente deve stare su chi va là, ma se no, se siamo soli e lui non mi dà nessun fastidio, sta di drumito, non nel divano, o nella sua cuccia, o sopra il letto che gli ho messo la coperta, se ne va sulla coperta e drumichi, capito? Non dà fastidio di niente, non è di quei cani che stanno sempre abbaiando, facendo, no, oh. Lui abbaia solo se sente gente strana. Cazzo, ti fanno venire mal di testa. Specialmente quei pincher, mi sono così. Sì. Bei tempi qui, di notte. Ti volevo rientrare a casa, se. Stavamo in viaggiotto, a Ciaramizzare. Poi rientrava Andrea, mi state attenti alla macchina, non mi toccherti la macchina, no, sta tranquillo Andrea, vai tranquillo. Boh, lo sai che non me ne ammetto che la macchina era, non me ne ricordo, lì sono passati tanti anni. E lui parlava di questo acquario che aveva costruito, un bel grande, mi pare che era 200 litri, una cosa del genere. Ah, avete sempre la casa lì, non è affittata né nulla, è fruita. alleluia. No, no. Ehi, bisogna trovare gente seria. Chiedergli la caparra, se se ne vanno con la cosa che vuole pitturata, senza pitturare le cose, li trattieni la caparra, se no gliela ritorni. All'inizio bisogna chiedere sempre una caparra. Ah, no, il cane lo fa quando è piccolo che si sta facendo i denti, a tu. Se non li copri quelle ossa finte da rosicchiare, si rosicchia quello che trova. Io infatti già ho comprato l'osso, le faceva, ma non sai quanto li duravano, due secondi le faceva tutte a pezzi, tutte infarinate. Sì, tutto a posto, tutti la bella, sì. E ti paghi con nomi e ti tu gatto. Vabbè, vabbè. È un peccato però, dai. E a chi andrà quella lì, a tua figlia? Se la vuoi togliere subito la mezzo, dai. Eh beh. E vabbè, adesso le ragazze sono molto... si destreggiano da sole, c'è mia figlia che è a Bologna, io sono un po' su chi va là, ma è una ragazza che va da un posto all'altro, trova sempre di meglio, vabbè che ha un curriculum che è splendido, dai. Ha avuto 110 e lode sia nella laurea che nella specializzazione, per cui passa da un posto all'altro come niente fosse, però sempre si è sul chi va là perché sono soli, via, cosa, cosa, e c'è il fidanzato, sì, sono soli, ma sono due ragazzi, dai, sono giovani. E il ragazzo è salito per trovare a lì, ha fatto una domanda, ha presentato il curriculum, l'hanno preso da Zara a lavorare, prima l'hanno preso part time e poi mi hanno chieto se voleva fare il caponirute, perché hanno visto che ci sapeva fare. E ha detto di sì, poi con la coronavirus si è andata tutta a catasfascia, non l'hanno più preso, insomma un casino. Adesso come si calmano le acque dovrebbero riprendere. Non hai messo la firma e poi com'è che sei andato? Vabbè, ognuno si arrangia come può, dai. Ma buon Natalino, riprendi Ginko? Sì, c'ha un antennino così per il momento, ma deve piazzarla sul tetto, capito? Come dentro allo show mi ha detto che se la piazza. Eh sì, ce la prima sì. Ma poi è andato fuori, è stato in continente tanti anni, capito, ha lavorato lì. Io sapevo solo che era amico di Luca, Flipper, però non me lo ricordavo, dai. Non me lo ricordavo, poi quando l'ho visto lo conoscevo già. Sì, c'era Davide a cielo. E arrivavano forte lì, cazzo. Grazie a cielo arrivavamo bene. Poi è una bella zona quella lì. Ehi, anche io la guardo, cazzo. Di chi è quello lì? Di Danilo Zuppi? No. Perché il tubo è buono quello lì, secondo me. Non gli hanno messo manco tirati, niente. Il tubo, ed è alta lì. E il tubo è buono. E magari l'acciaio, buh. Perché io ce n'è uno di portatore che ci ha messo, ci ha fatto il traliccetto in acciaio per metterci l'antenna del televisore, te ne immagini, il traliccio brutto. Se tu vai via Principe di Piemonte lo vedi. Ma era la ragazza di Bambolina. E vabbè, dai, già ho capito, ma non mi ricordo come si chiama. Chi c'era lì? Come... bah, non mi viene. Quello che faceva il camionista, il padre che portava l'acqua, e anche lui adesso il camionista mi fa, e era la Peloccia abitato, ma non lo so se adesso c'è detto ancora, ma c'era sempre il camion parcheggiato lì al chilometro, o il camion dell'acqua, quello che portava l'acqua potabile. A proposito, che fine ha fatto lo giorno? Non l'ha più visto, ma sta aggiustando sempre baracchini, computer, questa roba, vabbè, comunque penso che stia bene, non ho più visto né sentito. Prima sapevo dove c'era il laboratorio, quindi via, credo non è via 4 novembre, via Civitavecchia, poi quella zona è via Marsina, e c'aveva il laboratorio lì, andavo qualche volta, poi non ce l'aveva più, diceva via Grattadaletta, mi fa, a prima. E poi non l'ho più, l'ho perso di vista, non l'ho più visto. Anche lui, già, ne aveva gli attrezzature, si è venuto tutto. Ah, ecco, ho capito. vabbè, dai. Andare. Tempi passati e non ritornano più a tu. Io quando parlo con gli amici pare che si fa bene della tardi e sono passati 30, 40 anni delle cose che ci ricordiamo. Ui, aiuto, mamma mia. Sì, vabbè, che sono belle le cose da ricordare. Io una volta mi sono trovato con un amico che avevo cominciato a farvi di roba di vecchia data, ci guardavamo solo in faccia e ridevamo, no? E c'era un altro amico insieme a me, non sapevo di cercate, poi io mi trovavo con un pesce fuori d'acqua, non sapevo di cosa stavate parlando, di nulla, voi rilevate cose, io non capivo cosa stavate dicendo. E vabbè. Interessante che ce ne ricordiamo perché siamo vivi per ricordarcene le cose. No, io con le donne delle elementari ho un certo, diciamo, dialogo e cose su Facebook, eccetera, eccetera, però delle medie no, anche delle superiori, perché eravamo tutti maschi noi, quindi no, non ci abbiamo nessun contatto, dai. So che un amico, un mio compagno di scuola è morto, ho saputo, perché volevo fare rimpatrio e cose, invece poi mi hanno detto uno era morto, l'altro si era separato, l'altro era morto alla musica, insomma ho trovato, guarda, un ambiente proprio cazzo da ammazzarti. Quando mi hanno detto che era morto quel mio compagno di scuola, che stavo sempre insieme a lui, me ne parlato tutto in capo. E quando fai questo rimpatrio rischi sempre di trovare qualcosa di brutto, capito? Quello che c'ho paura. Sì, l'abbiamo fatto una pizzata, invece di essere una cosa allegra, abbiamo ricordato quello che era morto, l'altro che si è separato, l'altro che... Dagli detto, non è molto più. Lo so, ma già fa sempre piacere. Per dire, con una mia ex io mi sono sentito su Facebook così, ma io ti parlo di una mia ex delle medie, e ha fatto quasi finta di non riconoscermi, te lo immagini, il mio cognome poi non è da dimenticare. Ha fatto, ah sì, mi ricordo vagamente, e ce l'hai fatta a darle delle dritte. Ah, e vabbè, quando non se ne intende a due, la ragione. E anche a me la GVC me l'hanno coinvolgato loro, me l'hanno aperto, ho messo i numeri, che vado a farlo funzionare e non funzionava. Sono dovuto ritornare indietro con l'altro telecomando vecchio e mi ha detto, ah, sì, forse ho sbagliato il numero. Aspetta, tu la busto, sono andato e aprivo. E deve essere, non c'era quello capo quando me l'ha venduto Tonino. Poi a me non si può manco rientrare in chiudi, un magazzino va. Avanti che vuole entrare. Eia Manuele. È citofonica, vero Anto? Tu come la senti questa modulazione? Ah, tu non la senti, buonanotte. Cosa stai facendo Manuele? Non ho capito. Ehi, ma cosa le stai facendo? È un po' citofonica rimane la modulazione, non è che vada male, si capisce, però è un po' citofonica, nasina, è sempre così la sento, poi magari è tipo di capsula che c'è nel microfono, KK, ehi vabbè, in che apparecchio lo stai provando? Ah, nel pace... Ci sono quelli della CTE che vanno molto bene i microfoni, perché non te ne compri uno? Costano 12 euro, mi pare 13 euro, vanno ben bene. Parla GVC e Drubini. E Capretto, vabbè, tu sei più vicino con l'età della scuola e cose, io sono un bel lontano, io ho 60 anni, quindi la scuola da un bel po' che l'ho passata. Tu pensa che ho fatto 38 anni solo di lavoro, io militare non ne ho fatto, e io ho preso diploma nei professionali, però mi è servito ben poco perché dovevo entrare alla Montubia a lavorare e poi la Montubia ha fallito e me l'ho presa in quel paese. Saldatore elettro o sia cittadinico? Sì, sì. Io saldavo ossigeno, argon, elettro di asfondamento, ossigeno, tutto quanto. Che poi non ho mai portato avanti questa cosa perché ho fatto le prove alla Montubi, mi avevano preso e poi cosa è durato? È durato pochissimo tempo, poi la Montubi ha fallito. E alla Montubi si saldavano tubi che ci stavi tu dentro. dovevi andare con la scala all'americana. Ci avevi detto di sfondamento, prima dovevi sfondare e poi saldare. Non era una cosa facile. Poi la cosa più brutta che io ho trovato è che noi usavamo elettrosaldatrici. Io ho trovato le motosaldatrici, saldatrici a motore. Ed era tutta una cosa diversa, capito? Tutta una cosa diversa. Vabbè, comunque già ho fatto l'esame e sono andato bene, perché dicevano dei saldatori, un po' ho chiesto e ho detto, guarda, io ho detto 7 elettrosaldatrici, non è che mi spiegate velocemente prima di fare l'esame. Io ho detto, non la pensi lì, guarda, tu dici, ma l'hanno fatto vedere. Poi c'era mio cognato che lavorava lì, era carpentiere. Gli dici, ma l'esame sono passato, sono entrato anche a lavorare, però il fatto è che è durato poco. Poi mi è uscito questo lavoro al Tourism Market e ho mollato tutto. Sì. Diciamo che mi sono eclissato in quel posto, potevo cambiare in meglio, ma mi sono eclissato troppo e ho fatto troppe fatiche. Non era male, però ero stipendiato bene, dai. Però la fatica era troppa, troppa fatica. Ma tu, se lavori non trovi un cavolo, se facevo un cavolo, la mattina facevo dalle 8 sino all'una meno un quarto, la sera dalle 5 e mezza sino alle 7 e mezza, e cosa ci ha fatto un travaglio? Non ne andava ci ha fatto travaglio. Uno già l'ho trovato che portava le bibite di stintino che mi voleva, ma cosa ci vado a fare? Era un padroncino di quelli che da oggi a domani, ma dice non vado in travaglio. Lo schema dell'escenografo. Dimmi, vi siete dimenticati? Ah, carino, piccolino. E ui. Vabbè. Già la metterò a posto quella chiavetta SDR, me la vedo sul computer, le storie. E ascolto le altre frequenze col computer, giro antenna e via. E in realtà lì noi ce ne siamo dimenticati, ma anche tu puoi bussare, puoi dire che ci sono anch'io, io lo faccio quando si dimentica. Ah, io vi ho lasciato conversare, non c'è problema, capito? Però ascolto il buco. Stavo scendere giù adesso, dai. Devo andare a fare 7.30, ci sentiamo dopo. Ti spiegherò poi. Quest'anno va bene, dai. Va bene. Per quello sono contento. Dai, chiudo, ci sentiamo stasera. Ciao, ciao, già. Binario 10! Binario 10, c'è qualcuno! Avanti binario 10, avanti binario 10. Sono binario 10, la stavo chiamando. Ma sei in FM? Sei in FM? AM, modulazione AM. Oh, ti sento in FM io, buonasera. Sassari, della Sassari. Sono in FM, scusa, in AM sono. Oh, io ti sento strano, o è la zona in cui mi trovo io, non so cosa dirti. Io mi sto qua un attimino da Fusaro a guardare un componente elettrico e poi sono subito qua alla radio. Niente, ti sento strano, sicuramente è la zona in cui mi trovo io allora, che dà questa differenza. Ho capito, aspetta, se non sbaglio, che sei? Conosciuto. Vieni avanti, non ho capito. Sei conosciuto, chi è? Non lo so, io ti sento malissimo, il segnale a manetto dipende da me. Se ho un pochettino di pazienza mi sposto da questa zona, ma io mi privilegiavo, ti ascoltavo benissimo, poi mettevo dei carabinieri, non toccato il microfono. e nient'altro, e tipo meglio per l'improvviso, mi sento come che sia in AM, non so. Qualcuno ricordi porco che può aiutarci? Sì, quello che mi serve è questo avanti. Ora, vediamo che mi risponde ora. Caragana! Ah, Luca! Non c'è nessuno? Mi sembra che non ho capito male, è Barracuda, che ha detto che mi sento male. Buono, le caldine stanno facendo male, le caldine stanno facendo male una sera. Per fatti, lo sta facendo bene. Sta dicendo che ti tocca. Sembra uscendo male. Prova. Uno, due, tre, prova, sto uscendo male. Adesso no. Bob aveva alzato il car quando era in USB, stava facendo queste O. Ah, ho capito. Ciao Eugenio. Buonasera, non mi capisca. Ciao Eugenio. Vabbè, Eugenio. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, mi finisce. E che si dice? Tu stai andando o tornando? Sto andando ancora. Cambio. Vai, vai! Caragata! Cosa. E cosa ci racconti invece? C'è una fame! Cosa hai detto? C'è una fame! Hai una fame? Io meno male stasera sono da Bruno a mangiare la pizza! E Bruno dov'è? No, praticamente è davanti, vicino alla stazione, praticamente c'è presente quel, non so come si chiama, quella palazzina che c'è la tartaruga disegnata? Sì. Sali su, poi giri, sali molto su, poi giri a destra ed è... Non lo so spiegare, mi aspetta che... Non dico la via. Comunque c'è la stazione, là, più o meno. Che mi chiama? Azzardo. Ciao Azzardo, come stai? Davvero? Ma mi tella? Vedi, ho tagliato il filtro. Di là a me. Di là a me. Ma anche la giugana. O te nonna, nonna la giugana. Ma mi basta il mio. Mi basta avanza, credimi. Mi basta avanza. Molte volte manco la letto riesco a alzarmi. Ho fatto le visite tutto quanto, fai la fisioterapia, mi ha chiamato. Dice basta, non dici sedute, ma vai, ma cazzo, ma vedi, non mi hanno mai chiamato. Maledetti. Me la tengo altro. Ma sai perché ho questo mal di schiena? Perché io giocavo con i sacchi di cemento, ho giocato con i sacchi di farina, eccetera. Luca! Ah, butti un cannoncino. Dimmi. Faccio Antonè. Praticamente è piazza Monsignor Arcangelo. Ah, adesso vediamo, boh, venerdì, se mangiare la pizza, mangiare il panino, boh. Cioè, voglio sentire la signora dove vuole andare. Cosa? Mamma ci ha fatto affidare il tappeto, ogni volta diceva il sabato no che non la fanno lievitare, poi in settimana dice no andiamo il fine settimana, meno male siamo riusciti a convincerla, andiamo stasera. Ma stasera o domani? No, stasera. E come la mangi la pizza tu? Volani su, devo vedere. No, più o meno che tipo di pizza ti piace, il gusto, non so, boh, con gorgonzola e frego di bere, coso. Ciccia, la giarciccia. Ah, salsiccia prosciutto, come ti piace? Oh, anche solo salsiccia piccante, roba piccante. Ah, se inizi già adesso roba piccante era buio, quando vai 20 anni, mi desincanti, io gli decini di molli. Ah no, ma dormito ieri tu? E tutto questo quando? Spariscono così. Cosa vuoi ti dica, boh? Oh, yeah. Andiamo bene, andiamo. Ma io sono giorni che non tocco niente, nulla, è vasore, buono, non giocare, vino, cosa qua, basta. E cosa ti bevi di caldi mangiando la pizza, Coca-Cola? Boh, non so, Coca-Cola Sprite, birra e chiusa. Ah, bevi la birra? Quella limone. Ah, ho capito, già è buona anche quella, più leggera, Non credo. Allora io d'estate, siccome sono molto assettato, soprattutto quando lavori, no? E vado a mangiare la pizza, mi bevo la non filtrata. Mamma mia come ci scende. Ci scende che è una bellezza. Anche la pizza è non filtrata? Sì. La pizza è allo sticchio. Buonasera a tutti. Vabbè, com'è? Ne sta entrando gente, io non sono entrato ieri, forse è mancato altro ieri, non me lo ricordo. Non ho più voglia lui, non ho più voglia, lo sai. Senti, non so, non sei solo, Ma entro così, visto che ce l'ho qua, ce l'ho vicino, sennò non c'ho roba da fare, no? Magari lo viene qua tutti, un po' per tutti, non solo per te. Ehi, oggi abbiamo provato quella vipera a fare le analisi, la gatta ha pure azzannato il veterinario. E comunque controllo di creatinina, fosforo, tutto perfetto. E non vomita già da due giorni, probabilmente ha mangiato qualche ragnetto, qualcosa che le ha fatto male. Dove l'hai portato? Sì, siamo andati lì in via... Dove dicevo io, Luca, dove c'è quella vetrata, non siamo andati dai privati, dai. Vabbè, però l'avete risparmiato. Sì, non lo so, l'ho risparmiato alla fine, cioè alla fine come paghi da quello, paghi dall'altro. Vabbè, purtroppo i cani sono più tranquilli, quando li fai prelievi, ma il gatto che lo tieni forzatamente, no, lo tieni fermo, si incasa ancora di più, diventa una vipera, poi il gatto femmina mia, la femmina è sempre più tigrosa del maschio, anche le donne umane, capito? Riprendi Riccardo. No, io scusate, stavo sistemando e ciao Marco. Ehi, ciao, adesso vediamo, dai. 5:30 ancora è presto. Comunque è ventoso anche oggi, Luca. Ogni tanto sentivo fischiare il vento. Due, io da me. Stamattina sono sopra un tetto. Stavo sistemando. La stavo ripuntando l'antenna TV. È vero. Fabio Master. Antonio Rigerva. E ce l'hai i ricambi del gatto? Se la portavi da me la spuntavo io, non ho capito bene, che hai avuto un attimo una scarica di minchiofonica. Ah, puntavo, sì, lì bisogna legarla o sedarla, perché il gatto è veramente una rottura di scatole, quando devono tipo fare iniezioni, roba del genere. Una vipera proprio, e lì è tranquilla, ma a certe volte diventa una vipera. I cani sono più tranquilli. In genere molto più tranquilli, per i prelievi perlomeno. Bene, dai, riprendete che io non so cosa fare, non ho voglia di parlare comunque, casomai vi ascolto, ok? Ho fatto, ma ascolta una cosa invece, ma è possibile, secondo te, che in PEP da quasi 20 watt questa radio e PEP e l'altro, quello piccolo, vabbè, è di 20 watt, però non esiste, cosa vuol dire? No, tanto ve lo guardo. Ma chi, Francesco Luna Rossa? Lui è Luna Rossa. Adesso lo cerco, dai, buonasera, chi è entrato? Buonasera, Giulio.